Stop peanut. Alla console Sandro e Alfredo. E benvenuti a questo speciale Salpinos che va ad esaminare quella che è l'ottava edizione del Festival del Jazz di Bologna, che dal 26 ottobre fino al 27 di novembre, per un mese intero, ci proporrà quasi un concerto al giorno. Devo dire che chi ci conosce, chi ci segue, sa perfettamente che non è che siamo particolarmente sciovinistici alla bolognese per valorizzare ciò che c'è in città più di quello che c'è altrove, ma questa volta credo che il Festival da me davvero di Bologna abbia trovato una formula e un cartellone vincente. E quindi Bologna ritrova fino in fondo un suo prestigio jazzistico nazionale e in questa kermesse, che peraltro ha anche diverse novità, non solo, dicevo, nel merito dei contenuti proposti, ma anche nel metodo, nel senso che già la stessa scelta di un mese di concerti senza congestionare in pochi giorni tutto l'accaduto è una scelta che fa metabolizzare meglio le musiche. La scelta delle location: si allargano i teatri, le cave e anche i luoghi di ritrovo, cercando anche, è il caso delle scuderie in Piazza Verdi, degli avamposti per cercare un pubblico nuovo, un pubblico giovane. Sempre in questo senso anche la promotion viene fatta in modo differente ed arricchita. C'è questo autobus musicale con fotografie che girerà per le strade di Bologna, autobus di linea evidentemente, e c'è anche queste app per cellulari che permetteranno agli utenti di vivere in tempo reale e commentare in tempo reale tutti gli accadimenti del festival. C'è poi da segnalare importantissimo questo incontro tra giovani studenti di musica del conservatorio e musicisti presenti al festival. È il caso degli Opus 5, che in realtà è l'ossatura del Mingle Dynasty, che peraltro va sul concerto evidentemente, ma che avranno uno stage con questi ragazzi. Ci sarà anche un premio, il premio Massimo Mutti, dedicato al patron del festival, patron storico deceduto prematuramente l'anno scorso. I due ragazzi che più saranno riconosciuti meritevoli, tra virgolette, poi potranno seguire quest'estate a Siena i corsi di perfezionamento, e tutti sappiamo come Siena sia riconosciuta come la maggior porta per entrare dallo studio al professionismo. Quindi una rassegna che ha tantissime cose e tantissimi linguaggi nel suo cartellone. Dico questo perché inevitabilmente in questo Salpinos non potremo rendere conto di tutto, faremo solo una nostra scelta tra le cose che forse riteniamo più interessanti, sapendo che come questi festival così ricchi a volte ti sorprendono, le gerarchie si sconvolgono e trovi le cose più importanti magari laddove meno te l'aspetti. Comunque, dal cartellone in partenza, naturalmente si parte il 26 ottobre e lo si fa nel Teatro Auditorium Manzoni, e il progetto è Remember Sharkey, ed è un trentennale progetto che viene capitanato dal chitarrista John McLaughlin assieme al tabla, al percussionista di Zakir Hussain, con loro Shankar Madhavan, Uri Shirinas e Salva Ganesh. È un progetto trentennale, anzi quarantennale di musica, quindi una cosa antica che si rinnova. Sharkey è quel tappeto su cui ci si siede nel fare musica indiana. E infatti l'incontro tra un chitarrista che nasce, lo sappiamo, nell'ambito del blues rock inglese negli anni 60, fianco a Eric Clapton e Jack Bruce, e poi insomma nell'alveo del guru d'allora Graham Bond. Poi McLaughlin passerà per l'incredibile avventura di Miles Davis in Beach Brew, da lì prenderà, conosciamo perfettamente, la sua rock jazz con la Mavision Orchestra, di cui sarà naturalmente il leader, e quindi ci sarà questo avvicinamento alle filosofie, anche alle musiche orientali, che lo porterà appunto a questo incontro e a questa sperimentazione del Remember Sharkey. Sentiamo allora, tratto da un concerto di due anni fa in questa formazione, la chitarra di McLaughlin assieme appunto al gruppo e in particolare, si diceva, alla tabla di Zakir Hussain. Thank you. Comunque questo era McLaughlin col suo gruppo Remender Sciacchi. Spostiamoci sempre scorrendo il cartellone a Ferrara, perché ahimè non c'è a Bologna questo concerto, è solo al Turione, jazz club riconosciuto della città estense, ed è il quartetto di Tim Bern, il suo Snake Oil. Affianca a Tim Bern, ovviamente alle ance, Oscar Noriega ancora ai sassofoni e clarinetti, Matt Mitchell al pianoforte e Chess Smith alla batteria e le percussioni. Già la formazione sarebbe, come si diceva un tempo, da supergruppo, ma in particolare, oltre che seguire i singoli musicisti, seguiamo invece l'opera di Tim Bern, che da ormai decenni è in qualche modo un guru riconosciuto dell'area creativa di ricerca. Quindi il ricordo è il 28 ottobre al Torrione, Tim Bern e Snecole. Sentiamo dunque un passaggio di un concerto recentemente registrato all'area sismica di Mendola. Thank you. Da Ferrara e Tim Berners spostiamoci a Bologna, perché oltre che al Torrione anche alla Scuderia il 1° novembre avremo un concerto davvero importante. Torna al Festival dei Douglas, questa volta in un quintetto con Airabagon, questo musicista newyorkese filippino, uno dei sassofoni più emergenti del momento, poi Luz Perdomo al pianoforte, Rady Reston alla batteria e poi la bravissima Linda Ho al contrabbasso. Le Douglas lo conosciamo, fa parte di questa generation di trombettisti che ha riqualificato e rinnovato con altissimi livelli tecnici questo strumento, la tromba, assieme ai vari Kung Fu, Bernstein o altri, e un personaggio che ha scorazzato in ambienti diversi della musica, in quanto dagli ambienti per esempio zorniani, newyorkesi del Masada, fino ad ambienti magari più legati a una concezione classica, tradizionale del jazz. Questo ha creato anche qualche malumore tra i puristi, sta di fatto che Dave Douglas, tra un premio e quell'altro che consegue, ha sempre un livello altissimo di musica. Sentiamo infatti, per esempio, questo antico brano di Dave Douglas, dove si ripercorre un'area quasi New Orleans, ma non in una pedissequa reinterpretazione filologica, quanto nell'esprit del pezzo, che mantiene dei canoni altri da New Orleans, ma rimanda questo senso della tradizione, delle radici del jazz. Thank you. E questo è il gruppo di David Douglas Quintet, ricordiamo anche la formazione perché oltre al trombettista ci sono altri fior di musicisti, ci saranno alla Scuderia il 1 novembre e al Torrione di Ferrara il 2, ci saranno dei Douglas per l'appunto alla tromba, Airabagon al sassofono, Luis Perdomo al pianoforte, Linda Ho al contrabbasso e Rady Reston alla batteria. Veniamo invece, tornando a Bologna, ai grandi teatri, al Duse, il 5 novembre arriva il Jack DeJohnette Group. Jack DeJohnette o DeJohnette sicuramente non ha bisogno di presentazioni, è un po' un monumento equestre nella batteria del jazz, ha cominciato giovanissimo e nella sua prodigiosa carriera ha intersecato tutti i più grossi personaggi dell'area musicale e ha consacrato la sua celebrità nella permanenza trentennale nel trio di Kay Jarrett. Ultimamente DeJohnette con la sua musica ha dato alterne prove di se stesso, da cose sempre di grande classe a cose magari meno interessanti. Non è in discussione la sua capacità sulla batteria evidentemente, quanto il contesto musicale in cui si pone, e perciò sarà interessante vederlo in questa versione da festival, e lo troveremo insieme a un altro personaggio che con lui condivide questo aspetto di alterne prove, è Don Byron, un clarinettista che ha fatto cose eccellenti, poi ultimamente si è anche un po' perso. È un'occasione questa per vedere se ritroveranno entrambi il bandolo della matassa per riproporci come sanno fare grande musica. Quindi Jack DeJohnette Group con Don Byron al clarinetto, George Culligan al pianoforte, Jerome Harris al basso e naturalmente le grandi bacchette di Jack DeJohnette. Ascoltiamo la stessa formazione registrata qualche tempo fa in un concerto che vedeva sul palco uno strumento in più in questo gruppo, ed era una grande chitarra, quella di Bill Frisell. Sta di fatto comunque noi ci concentreremo sull'assolo di Don Byron in questo brano che vi proponiamo. Thank you. Naturalmente il festival non rinuncia alla sua tradizione legata alla classicità, tra virgolette, della musica, e quindi alcuni personaggi rientrano a buon diritto in questo cartellone. Tra gli altri segnaliamo Tom Harrell col suo trio, questo trombettista nonché maestro del filicorno, con Danny Grissett al pianoforte e Hogan Okewo al contrabbasso. Dunque un trio nella classica formazione da Cave, infatti sarà presente a Bologna sia il 14 che il 15 novembre alla Cantina Bentivoglio. Prima di lui, alla Scuderia, l'11 e il 12 novembre, l'11 in realtà al Torino di Ferrara, il 12 a Bologna, alla Scuderia in Piazza Verdi, abbiamo il gruppo, il trio Fly, dove c'è questa sonorità molto cool, molto all'iconis di Mark Turner, assieme a Larry Grenadier al contrabbasso e Jeff Ballard al batteria, una formazione non accompagnata dal pianoforte che appunto si basa sulla sezione batteria-basso, cioè la ritmica, sull'ossatura del gruppo, del trio del pianista Brad Meldau. Quindi una sonorità comunque che acquisisce una valenza diversa quando entra questa spigolosità del sax di Mark Turner. Quindi sentiamo in sequenza prima uno spezzone della musica di Tom Harrell, ripreso in un quintetto, e poi proprio del trio Fly di Mark Turner e compagni. Thank you. queste erano state in sequenza prima la tromba di Tom Harrell e poi il contralto di Mark Turner. Ma andiamo al 18 novembre al Teatro Comunale di Ferrara, dove ci sarà il decimo anniversario dello Stefano Bollani e il suo Danish Trio. Bollani, reduce dai suoi successi televisivi con il suo Sostiene Bollani, a dir vero un po' troppo gigionesco a mio parere, comunque qui si ripresenta con la formazione collaudatissima, dove Bollani può mettere a pieno in mostra tutte le sue capacità ritmiche e inventive, che davvero non sono poche sul pianoforte. Quindi Stefano Bollani al pianoforte, Jesper Badilsen al contrabbasso e Martin Land alla batteria. Dicevamo diversi linguaggi, diverse situazioni. C'è anche questo momento, sempre per rimanere nella classicità, di questo tributo a Cedar Walton con il 24 novembre, con Jim Rotondi alla tromba, Piero Dorici al sassofono, Danny Grissett al pianoforte, Derry Hall al contrabbasso e Willie Jones terzo alla batteria. Questo alla Cantina Bentivoglio alle ore 13 nel Brunch Jazz. Il 19 invece, sempre in questa situazione, all'interno della sequenza L'arte del duo, che è una pratica mai diffusa, che prevede grandi capacità, due sono gli appuntamenti: uno il 26 novembre tra due musicisti davvero emergenti, il contralto Cigaline e Enrico Zanisi al pianoforte, e il 19 novembre alle 22:30 Gianluca Petrella al trombone e Giovanni Guidi al pianoforte. Petrella e Guidi sono sicuramente due star internazionali, entrambi hanno suonato con i maggiori musicisti europei e non solo, e più volte hanno dimostrato la loro capacità anche di improvvisazione e anche di interplay, e quindi sarà un appuntamento importante questo 19 novembre. E di questo duo Guidi Petrella, naturalmente, adesso vi diamo un assaggio. Thank you. Credo che il linguaggio più che efficace e creativo tra Guidi e Petrella, Guidi al pianoforte e Petrella al trombone, si sia ampiamente mostrato anche nell'esempio di qui sopra. Ma veniamo al 22 novembre alla Scuderia, e chi manca questo appuntamento può recuperarlo, il 23 al Torrione a Ferrara, dove sicuramente arriva il trio del Bad Plus, uno dei momenti più interessanti dell'intero festival. È una formazione collaudatissima, da tantissimo tempo sono insieme, hanno ricevuto un sacco anche di riconoscimenti, ma più che questo il loro trio con il Ethan Iverson che al pianoforte esplora in modo postmoderno e quasi maniacale tutte le possibilità dei motivi affrontati. Con lui la spina dorsale del gruppo Reid Anderson al contrabbasso e l'incredibile, esplosivo, inimitabile David King alla batteria. È un gruppo che molto spesso prende a prestito temi del pop e del rock, temi assai conosciuti, ma li trasfigura nel procedere del brano. È un ritorno a Bologna in trio, un gruppo che a volte si avvale anche dell'aggiunta di Joshua Redman al tenore per formare un quartetto infinito, ma anche il trio davvero è un'esperienza da non perdere per chi in particolare non avesse mai avuto possibilità di ascoltarli. Quindi Ethan Iverson al pianoforte, Red Anderson al contrabbasso, David King alla batteria, The Bad Plus. Thank you. Naturalmente già dalle cose che vi abbiamo proposto si capisce quanti spunti questo cartellone possa offrire al pubblico bolognese, ma c'è anche tanto altro che non abbiamo avuto il tempo di citare e che invece presentano cose del tutto di rilievo, per esempio come alcune musicisti bolognesi che sono van ben oltre Bologna, come Carlo Atti, o come la presenza di un sassofonista come Gio Lovano nel gruppo di Antonio Farò American Quartet. Ma il festival in realtà si chiude tornando a quella world music che l'aveva aperto con il Remember Shakti di John McLaughlin. A chiuderlo sono due esponenti che hanno ricercato nella musica folclorica, cercando un incontro con la musica e il linguaggio jazzistico. Uno è lo scandinavo Jangar Barek e l'altro l'indiano Trilo Gurdu. Jangar Barek ha le varie ance, in particolare al suo saxello, e Trilo Gurdu, come sempre, ha le percussioni alla batteria. Con loro Rainer Brunninghaus al pianoforte e Juri Daniel al basso elettrico. Entrambi, dicevo, hanno avuto uno spettro di attività molto vasto. Trilo Gurdu ha legato appunto l'idioma della musica indiana a un certo funky jazz, approfittando delle sue enormi capacità ritmiche, tra l'altro figlio d'arte, mentre Jangar Barek, che dopo inizio anche ambientato nel certo jazz rock, ha scandagliato tutto il folklore scandinavo delle saghe nord europee, però anche non disdegnando appunto altri tipi di percorsi. Lo ricordiamo per esempio con Nel Pinnock e la sua orchestra di musica antica. Qui ritroviamo appunto il duo in un concerto tenutosi proprio quest'estate a Umbria Jazz, dove questa formazione si è esibita e che naturalmente ha trovato gli applausi del pubblico. Beh, in questo segmento di concerto che vi offriamo partorirà il The Creek, che è uno dei brani forse più conosciuti di Jangar Barek. Thank you. con The Creek, in questa interpretazione del gruppo di Jan Garbale, che è featuring Trilo Gurtu, abbiamo un po' concluso questa rassegna di musicisti che abbiamo voluto sottolineare, ma come dicevo prima tanti altri ce ne sono sparsi per cantine e varie location, quindi si parte dal 26 ottobre, si finisce il 27 novembre, un mese di jazz, quindi diciamo che c'è un equinozio d'estate nell'autunno jazz bolognese. Remember Shakti, Jan Garbale, Dia De Gione, Stefano Bollani, Tom Harrell, David Douglas, Fly, The Bell Blues, Tim Berne, Petrella Guidi, sono i musicisti che vi abbiamo così rappresentato in piccole sequenze musicali, ma sarà tutto un festival da seguire e da ascoltare. Per adesso è tutto, a risentirci, ciao. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Thank you.